Radio 24 Reportage. 2012. Cambio all'Eliseo. E in Europa? Di Sergio Nava. Potete ascoltare migliaia di persone in Russo Ferino che stanno in questo momento attendendo l'annuncio ufficiale. Countdown! Attenzione! È praticamente pochissimi secondi. E in questo momento l'annuncio. François Hollande, presidente della Repubblica Francese, ore 20 in punto, siamo a Parigi, Rue Solferino, François Hollande, presidente, e Rue Solferino sta esplodendo. Maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant que nous avons une chance et qu'il faut la saisir. Ci sono momenti in cui la storia è nell'aria, la senti, la vivi sapendo che è qualcosa di irripetibile. Uno di questi, domenica 6 maggio 2012, la serata in cui un politico socialista è tornato all'Eliseo dopo ben 17 anni di lontananza. Nel pantheon ideale del PS francese, François Hollande succede così a François Mitterrand, facendo appunto la storia. L'atmosfera è elettrica fin dalle 17.45 in Rue Solferino, storica sede del Partito Socialista. Centinaia, poi migliaia di sostenitori affollano la piazza. L'aria profuma di vittoria imminente, a portata di mano. Tantissimi giovani riempiono all'inverosimile la strada. All'interno della sede, centinaia di giornalisti e lo Stato Maggiore del Partito Socialista attendono i risultati, in spazi via via sempre più angusti, che rendono difficile persino muoversi. Dalle 19 saltano pure le linee dei telefoni cellulari, sovraintasate dalla concentrazione crescente di folla nell'intero quartiere. Resteremo isolati per ben 2 ore. A un'ora dall'annuncio ufficiale, incrociamo l'uomo sondaggi del Partito Socialista. 52-48 per François Hollande, la proiezione definitiva che ci fornisce sulla base della chiusura dei seggi, un'ora prima in quasi tutto il paese. Ma prima delle 20, quando a chiudere saranno anche gli ultimi seggi delle grandi città, questo dato non può assolutamente venire diffuso. 19.30, manca solamente mezz'ora alla proclamazione del risultato finale. Ormai tutti i sondaggi danno Hollande vincente, 52-48. Rue Solferino è gremita all'inverosimile. I socialisti stanno assaporando la vittoria dopo ben 17 anni lontani dall'Eliseo. Ormai è veramente un tripudio. Si aspetta solamente l'annuncio ufficiale di François Hollande, nuovo presidente della Francia. Poi alle 20 in punto, l'annuncio. Il primo discorso di François Hollande da presidente eletto è un tributo al cambiamento, ai giovani e alla nuova rotta da disegnare in Europa. I militanti lo seguono commossi, esultando ad ogni passaggio, ad ogni annuncio, anche se sono poche le novità rispetto a quanto già detto in campagna elettorale. Il carisma dell'uomo normale, come lo ha definito la stampa, continua a sedurre i suoi elettori. Poi, ai microfoni dei giornalisti, esplode la felicità. Chi dipinge Hollande come il campione del potere al popolo, chi come un uomo di Stato, e via dicendo. Ce soir, c'est le pouvoir au service du peuple qui a gagné, contre le pouvoir, pour le pouvoir. On a un homme d'État à la tête de la France. C'est une soirée exceptionnelle pour moi. C'est une belle victoire, c'est une revanche par rapport à Sarkozy et à l'UMP. Il a fait son chemin, il a fait une campagne dynamique. Dopo le 22 tutti imboccano le strade che conducono a Piazza della Bastiglia in una processione laica festante. Tantissimi giovani animano una celebrazione che non ha nulla da invidiare a quella di una vittoria ai mondiali. Una festa sentita, cercata, voluta, goduta, con la sincera speranza di chi in un cambiamento ci crede davvero. Come Valerio Motta, italo-francese a capo della campagna internet di François Hollande, a Radio 24 spiega il segreto di una campagna che ha assorbito il 10% del budget complessivo. Nel 2012 siamo veramente in un momento dove online c'è una grande profusione di messaggi, di conversazione, di attività sui social network, una possibilità di avere una vista quasi continua in diretta della campagna elettorale del candidato François Hollande e degli altri candidati. Infatti, con una cosa in più e una novità per noi nella strategia, che è di dire che il web partecipa all'organizzazione della campagna elettorale, ma di terreno, abbiamo molto lavorato sul porta a porta, utilizzando sull'esempio di Obama delle applicazioni online per organizzare meglio il porta a porta. In quanti avete lavorato alla campagna web? Allora, ci sono due squadre, c'è la squadra del partito che era già prima della campagna elettorale, che ha lavorato per esempio sulle primarie che abbiamo fatto prima, siamo 13-14, e c'è la squadra del candidato che è composta di 35 persone. Piccolo passo indietro ora. Il giorno prima, il 5 maggio, in un tranquillo sabato di silenzio elettorale, ci siamo spinti fino alle porte di Parigi. Non appena finisce il territorio della capitale, inizia quello di un comune, Neuilly-sur-Seine, 60.000 abitanti appena, classificato tra i più ricchi di Francia, almeno secondo le statistiche. Dopotutto basta guardare i prezzi dei menù nei ristoranti per odorarne l'evidente ricchezza. Neuilly ha una particolarità: per 19 anni ha avuto Nicolas Sarkozy come sindaco. Al primo turno delle presidenziali, a fine aprile, Sarkozy ha raccolto qui oltre il 70% dei voti, una maggioranza bulgara. Qui capiamo, con qualche ora di anticipo, che l'ex presidente francese perderà, semplicemente parlando con i suoi sostenitori. Qui lo votano tutti, e qui, un giorno prima, avevano già capito come sarebbe andata a finire. Penso che le elezioni porteranno un cambiamento, ci spiega Sandra. È stata una campagna molto dura che porterà un cambiamento. Dubito seriamente che Nicolas Sarkozy vincerà. Io voterò per lui, ma non sono per niente certa che possa vincere. Afferma Guillaume. Penso non ci saranno cambiamenti rispetto ai sondaggi. Non c'è stato un dibattito di grande qualità. Sono in realtà un po' deluso dalla campagna. Non ho notato grandi differenze tra i candidati. Penso che alla fine vincerà Hollande. Ha abbastanza margine. Sarkozy non ce la farà a batterlo. Anche Carol pensa non ci sarà un cambiamento. Sarà dura, dice, per il candidato uscente, come ama chiamarlo Hollande. Sarkozy ha dovuto governare in un periodo difficile e l'opposizione socialista ne ha approfittato. Ci sarà un cambiamento, anche se non ne sono certo felice. Tuttavia penso che la contesa sarà molto serrata. Dice Monique, io avrei preferito che vincesse Sarkozy. Non penso proprio però che vincerà. I candidati non hanno toccato tutti i temi della campagna. Questo perché Hollande non ha voluto accettare i tre dibattiti proposti da Sarkozy. Servivano più dibattiti. Aveva ragione Sarkozy. E aggiunge Christian, non sono stati approfonditi tutti i problemi. A me ha deluso Hollande. Comunque, noi abbiamo una tendenza per Nicolas Sarkozy. E come sarebbe andata a finire in termini percentuali lo abbiamo compreso domenica 6 maggio a ora di pranzo, quando abbiamo fatto visita a un seggio elettorale nel cuore di Parigi, insieme all'italo-francese Barbara Revelli, vicepresidente del think tank progressista Eurocité. Appuntamento con lei di fronte al liceo Voltaire. Qui sicuramente troveremo un voto abbastanza misto. Siamo in una zona a cavallo tra due circoscrizioni, due arrondissement, l'undicesimo e il ventesimo, due arrondissement che si caratterizzano sia per la loro grande presenza popolare, sia anche per una forte presenza medio-alto borghese. Il mini sondaggio successivo, mentre il flusso di votanti cresceva a vista d'occhio di fronte alle urne, avrebbe rispecchiato quasi esattamente il risultato finale. Su 11 intervistati, 5 avevano votato Hollande, 4 Sarkozy, 2 astenuti. Sentiamo ora le voci degli elettori. Per François Hollande. J'espère un résultat large. Les sondages disent que c'est Hollande, donc j'espère. J'ai voté blanc. Nicolas Sarkozy. Tout le monde pense que c'est monsieur Hollande qui sera élu, voilà. Nous le souhaitons, en l'occurrence François Hollande qui gagnera, oui. Sarkozy. Vous avez voté pour Sarkozy, m'imagine. Je suis obligé de dire. Pour rentrer à la fête, c'est-à-dire que j'ai voté Hollande. J'ai pas encore décidé. Pour François Hollande. Ma quale Francia vedremo in Europa con François Hollande? Radio 24 lo ha chiesto a Franck-Paul Weber, giornalista già caporedattore esteri del quotidiano La Tribune. Secondo me rimarrà molto forte l'asse Parigi-Berlino. La cosa un po' nuova è che appunto magari François Hollande può usare la vista dell'Italia e anche magari della Spagna sulla crescita, la politica economica, per mettere sotto pressione la Merkel e a un certo punto avere più cose della Merkel. Di arrivare a un punto di collaborazione con l'Italia come la Francia l'ha con la Germania sarebbe una illusione. E per l'analista e politologo François Lafond, già segretario della Fondazione Notre Europe di Jacques Delors, un punto fondamentale sarà su quale tipo di crescita si vorrà puntare ora in Europa. Il concetto di crescita non è lo stesso concepito in Italia con il governo di Monti, che è più versato per la liberalizzazione, per un mercato mercato interno che funziona bene, per un po' più di flessibilità sul mercato del lavoro, e la concessione di François Hollande e della sua maggioranza, che sarebbe un po' più di sinistra, e dunque ci sarà un contrasto. Non è che François Hollande è stato eletto per avere più liberalizzazione, penso che è il contrario, cioè che è stato eletto per più protezione di alcuni settori dove la gente ha veramente delle difficoltà. E dunque la discussione sarà interessante. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.